questo è l'unico modo per sentirmi vivo. Se non ti arrivo, puoi cambiare canale. Se siamo su YouTube, metti pure non mi piace. Ma sento che mi chiedi che vado a suonare un musicista vero in barella in ospedale. Ed è proprio quando sento queste cazzate, la musica che vuole ma non si dà pace. Sarò pure in commerciale, nulla per la tua nicchia. Lo faccio per tutti perché la musica non è razzista. Vedi sta vista con questa, mi ritrovi sempre in zona vista. In pista su e giù per il palco, sempre coerentemente con quello che faccio. Scusa non ti piaccio, dov'è il problema? Rompo ogni catena se ne vale la pena. Tu va per la tua strada che io vado per la mia. Ti saluto, pace, amore, così sia. Goodbye, goodbye, ciao ciao, addio, sono qui da te. Goodbye, goodbye, ciao ciao, addio, sono qui da te. Cerco una connessione, una nuova dimensione per cambiare direzione. Cerco una distrazione, una breve interruzione tra cervello e neurone. Stoppa la trasmissione, non ci sono per nessuno un po' di comprensione. Goodbye le spiegazioni, consigli per gli artisti e fuori le coglioni. Parla sempre chi non dovrebbe, ma sarebbe meglio farsi un esame di coscienza. Avere la pazienza, premiare la costanza, rispettare chi fa musica senza arroganza. Qui non dico, non lo nego, ma l'ho detto. Dentro fuori del letto, nessuno è perfetto. Ma il rispetto è fondamentale. Conterei fine, dici prima di giudicare. Lasciami sognare, sono d'occhi aperti. Vorrei vivere in pace, che se siamo diversi. Vedo due rivali che si danno la mano. Tu chiamami terrone, ma io sono italiano. Su andiamo, notiamo la diversità. Siamo quello che si fa, poesie troppo immagini. Chi usa le parole per buttare a terra, illuso per far l'amore e non la guerra. C'è chi ammazza in nome di Gesù, poi si confessa e dice non lo faccio più. Sulla predica la fanno in troppi tanti. Nessuno sporca le mani perché si usano i guanti. Quando sogni infranti, pianti, canti, cattivi tutti quanti sono noi insieme santi. Infatti lascio questo paradiso deciso. Se vado più all'inferno mi do un sorriso. Goodbye, goodbye, ciao ciao, addio, sono qui da te. Goodbye, goodbye, ciao ciao, addio, sono qui da te. Cerco una connessione, una nuova dimensione per cambiare direzione. Cerco una distrazione, una breve interruzione tra cervello e neurone. Stoppa la trasmissione, non ci sono per nessuno un po' di comprensione. Goodbye le spiegazioni, consigli per gli artisti e fuori le coglioni. Qui siamo in guerra, una lezione dopo l'altra. Io non faccio prigionieri. Tu mi voti e ti tolgo il lavoro e ti sistemo.